Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria oggi: molta cronaca, da un lato l'Ilva, dall'altro le tensioni in Spagna, la nuova manovra del governo Rajoy, 35 miliardi di nuovi risparmi, chiaramente sta creando, come avete letto, anche molte tensioni in Spagna. I mercati oggi sono decisamente più tranquilli rispetto a ieri, un leggero recupero, più 0,40% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,15% l'America, più 0,20% Francoforte, più 0,17% Londra. Tra i titoli segnalo Campari più 3,5%, Azimut più 3%, come Buzzi, Unicem, Mediobanca più 1,90% come Telecom, 1,5% guadagna Exor, ma anche Enel, Green Power e Generali Assicurazioni e Viasorin. Chi perde: Fiat meno 2,13, Pirelli meno 1,30, Salvatore Ferragamo meno 1,20, A2A meno 1%. Di Fiat parleremo perché numerose sono le dichiarazioni di Marchionne dal Salone dell'Auto di Parigi. L'Alfa Romeo non si vende, lo dico anche in tedesco, ha detto Marchionne, e avremo un approfondimento su questo. Ha confermato che non cerchiamo, che la Fiat non cerca aiuto né dall'Italia né dall'Unione Europea, e che occorre cambiare però il fisco per favorire l'export. Nel frattempo però è anche aggiunto che il ritiro del progetto Fabbrica Italia, il progetto da 20 miliardi che una settimana fa si è scoperto non essere più in piedi, in pista, non ha niente a che fare con la FIOM, con i rapporti molto tesi con il sindacato dei metalmeccanici, che appartiene poi alla CGL. Ancora per quello che riguarda l'auto, nel frattempo dalla francese Peugeot il numero uno Philippe Varenne ha detto il mercato europeo dell'auto è in sovracapacità e in questo contesto ci sono un certo numero di stabilimenti da chiudere, questo per il gruppo Peugeot Citroën. Dall'altro però il numero uno della Volkswagen, Martin Winterkorn, ha detto a Parigi che la Volkswagen lancerà 140 nuovi modelli, 140 nuovi modelli entro il 2014. Ora, evidentemente la Volkswagen ritiene, ma non è l'unica, che si possano ancora fare modelli, pur in un mercato difficile come quello europeo. Tra l'altro il presidente della Volkswagen, Ferdinand Piëch, ha detto che sono ancora interessati all'Alfa, ma come dicevamo Marchionne gli ha risposto l'Alfa non è in vendita. C'è un mini sondaggio che abbiamo lanciato sulla pagina di Facebook di Focus Economia, un sondaggio in cui sostanzialmente abbiamo chiesto se fa bene Marchionne a rinviare gli investimenti e i nuovi modelli in attesa della ripresa. Adesso nelle prossime puntate lanceremo quasi ogni giorno dei sondaggi, se vi sarà materia. Chiaramente per ora alle 17 c'erano l'80% dei voti erano non fa bene, sbaglia, e solo il 20% sì, fa bene, non so, un misero 3-4%. Comunque lo trovate su Facebook, mentre il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Parleremo anche delle spese delle regioni, sia in apertura, come sempre facciamo purtroppo con quello che sta diventando un appuntamento fisso, ma anche perché ci hanno scritto in questi giorni, devo dire, decine e decine di consiglieri comunali, assessori di piccoli centri, cioè, dicendo scusate, anche noi siamo scandalizzati, però non vorremmo che passasse il messaggio che tutti quelli che lavorano nella rappresentanza, e quindi nel caso del comune, della provincia, siano persone che si comportano come le vicende che abbiamo visto. In realtà, siccome molte di queste lettere erano anche toccanti, ne abbiamo scelto una a livello proprio emblematico per farci raccontare anche da chi lavora. I centri sono di solito piccoli, non enormi, quanto guadagna, quanto prende e anche come si paga le spese. In effetti è vero che altrimenti sembra, e c'è il rischio che passi l'immagine, che tutti i cittadini che si occupano di politica siano un po' come Batman e come l'allegra giunta della Polverini. Su cui tra l'altro abbiamo notizie, perché è un giallo, ma la Polverini si dimette o non si dimette, a parte l'annuncio, e perché nel frattempo continua a nominare dirigenti? Anche di questo parleremo. È strano, se una si dimette così orgogliosamente furibonda, non dovrebbe nominare dirigenti negli ultimi minuti. Sono vecchi vizi che speravamo di non vedere più. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro stabile a $1,753, petrolio in leggero rialzo ma sempre a $91,20 al barile. In America la stima sulla crescita economica è stata rivista al ribasso: dall'1,7% il PIL americano nel secondo trimestre farà un più 1,3%. E ancora, gli ordinativi di beni durevoli, che sono sempre un indicatore importante sui consumi, sono calati pesantemente in America, meno 13%. I beni durevoli sono tutti quei beni non di consumo, faccio l'esempio la lavatrice, il frigorifero, l'automobile, si chiamano beni durevoli. Beh, il calo è stato pesantissimo, peggiore di ogni attesa. Nel frattempo invece dalla Germania arrivano buone notizie. È perché la disoccupazione a settembre in Germania è scesa al 6,5%, con 7.000 disoccupati in meno. Da noi le cose invece vanno in maniera leggermente diversa, come ricorda oggi il presidente dell'Istat Giovannini, soprattutto per i giovani. Pensate che su 7.700.000 giovani tra i 18 e i 29 anni, solamente il 40% è occupato, il 40% tra i 18 e i 29, e il 13% è alla ricerca di un'occupazione e il 46% è inattivo, cioè non lavora ma studia in 6 casi su 10. Nuovi dati sulla casa: crolla il mercato in termini di compravendite, anche il dato del secondo trimestre di un meno 25%, però i prezzi tengono. Il calo più significativo è quello di Palermo, meno 2%. L'Ilva, allora, continua la protesta. Oggi lo sciopero e blocchi stradali. Il ministro Clini ha detto: lavoriamo per l'AIA e nel rispetto di leggi e direttive. Sciopero di FIM, CISD e UILM-UIL, ai quali però non ha aderito la FIOM CGL. Bloccate le strade di accesso alla città. Sostanzialmente il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, ha detto che impugnerà e farà ricorso contro il provvedimento del GIP, che ieri ha respinto il piano dell'Ilva e anche la richiesta dell'Ilva di continuare a produrre mentre andava a mettere in maggior sicurezza gli impianti. Poi Ferrante ha aggiunto: io credo che la politica industriale di un paese non possa essere affidata dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Però sulla vicenda se ne è occupato oggi il nostro programma Controluci. Vi vorrei far ascoltare due passaggi. Uno è l'intervento del segretario della FIM CISL Giuseppe Farina sul perché dello sciopero. Poi invece sentiamo anche un intervento di chi è stato danneggiato dall'Ilva in questi anni. Sono lavoratori che sanno che se perdono quel posto di lavoro non ne trovano altri, e quindi va in gioco il futuro di se stessi e delle loro famiglie, con i risultati che contano. L'adesione allo sciopero è stato totale, quindi nonostante i tentativi della FIOM di ostacolarlo, l'adesione è stata totale, e la mia impressione è che i vincoli che ha la FIOM sono più di natura politica. Tutte queste discussioni le abbiamo già fatte a fine luglio, ai primi di agosto, a metà agosto, e ci si è dato un programma di lavoro per superarli i problemi, perché non basta enunciarli i problemi, per quanto gravi, poi bisogna darsi un piano di azione, ed è quello che il governo sta facendo, e quindi io mi sarei aspettato e mi aspetto ancora, pur salvaguardando, come dire, non avendo nulla a che dire, perché la magistratura ha la sua autonomia e quindi è bene che operi e faccia le sue cose, però l'impressione di una mancata, di una scarsa serenità nella procura di Taranto, questa impressione c'è. Questa la testimonianza del sindacalista della CISL, quindi appunto Giuseppe Farina. La nostra Valentina Furlanetto però ha raggiunto anche Vincenzo Fornaro. Chi è? È uno degli allevatori che ha dovuto assistere all'abbattimento di centinaia di capi di bestiame, abbattimento dovuto proprio alla contaminazione da diossina che, secondo quanto indicato dai periti chimici incaricati dal GIP Patrizia Todisco, proverrebbe quasi esclusivamente, diciamo, dall'area a caldo del siderurgico. Su 2200 capi di bestiame abbattuti, pensate che 600 erano di questo allevatore, e quindi di Vincenzo Fornaro. Hanno concluso che la diossina presente nelle carni dei nostri animali è la diossina dell'agglomerato 2 dell'Ilva. Mia madre è morta di tumori, io stesso mi sono operato di tumore ad un rene. Il suo allevamento si trova proprio davanti all'Ilva? Sì, viviamo nell'azienda, di fronte all'agglomerato. Lei ora come sta innanzitutto? Fortunatamente, diciamo, ho superato, perché sono passati 12 anni dall'intervento, tutto a posto. Ovviamente non abbiamo più il lavoro da 4 anni, insomma. Aspettiamo il giusto riconoscimento dei danni, perché ci hanno azzerato un'attività che andava avanti da tanto tempo, dalle quali vivevamo noi e le famiglie dei nostri dipendenti, quindi circa 20 operai che lavoravano per noi. Quindi. E poi si è ammalata sua madre? Sì. In che anno? Praticamente in contemporanea, siamo ammalati entrambi nel 2000, diciamo. Lei poi purtroppo è venuta meno nel 2003, perché dopo l'intervento, nonostante si è fatto delle terapie, non sono bastate a salvare la vita, diciamo. Lei ha pensato subito che ci fosse una connessione? Devo dire, nell'immediatezza no. L'allarme è iniziato a venire fuori quando si è compreso che nelle pecore c'erano queste alte quantità di veleni. Giustamente dice, se questi animali sono stati per tanti anni a vivere in queste zone, figuriamoci noi. E dall'Ilva all'Alcoa, perché si è saputo che la proposta della Glencore, forse quella più seria in questo momento, per rilevare lo stabilimento dell'Alcoa di Porto Vesme, però ha un vincolo, perché per aprire formalmente la trattativa la Glencore pone una condizione imprescindibile, ossia il costo dell'energia deve essere per i prossimi anni non superiore ai 25 euro al megawatt. Attualmente all'Alcoa già si paga un costo bassissimo rispetto alla media nazionale, 35 euro, questo grazie alle agevolazioni. La media nazionale è circa di 70 euro a megawattora, per cui la Glencore chiederebbe 25 euro. I sindacati su questo sono molto preoccupati, soprattutto per questa lettera in cui la Glencore chiede alla Regione Sardegna e al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, di pagare l'elettricità appunto 25 euro a megawattora per 10 anni. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Ripartiamo con ste regioni. C'è un po' di tutto oggi che riguarda la Calabria, riguarda il Lazio e anche riguarda queste dimissioni della Polverini. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, partiamo dal Lazio, perché la presidente della Regione Lazio, che è ancora Renata Polverini, vorremmo capire a questo punto quando, ma solo tecnicamente per capirlo, quando non sarà più presidente, con un proprio decreto ha determinato oggi la riduzione a 10 del numero degli assessori nella giunta. riservando alla presidenza le competenze in materia di salute. Quindi da 14 scendono a 10, se ho ben capito. Sono salvati tutti gli assessori vicini alla presidente. È un rimpasto postumo, perché i due dell'UDC, Teodoro Buontempo, un ex UGL, e appunto quelli più vicini alla Polverini, Mariella Zezza, Pino Cangemi, Fabiana Santini. Però c'è un però, nel senso che adesso fate un'operazione sugli assessori quando ormai praticamente la giunta, se abbiamo ben capito, a fine mese decade, ma provveduto sempre Renata Polverini a nominare in extremis nove nuovi direttori di dipartimenti nella regione. Ma perché devi fare nove direttori, nove nuove nomine quando te ne stai andando? E poi veniamo a Erbatman e quindi Franco Fiorito. Allora, intanto oggi incasserà il suo stipendio, come ogni 27 del mese incassa lo stipendio Fiorito, 12.800 euro netti. Ringraziamo. Stessa busta paga anche per Carlo De Romanis, il genio della festa di Ulisse, che doveva arrivare pure i gladiatori, no? Si commenta da sola, ripeto, è il primo giudizio lì è estetico prima ancora che etico. E anche tutti gli altri 69 consiglieri del Lazio, e quindi Renata Polverini, che attraverso l'indennità e tutto prenderà 20.000 euro. Sapete chi non prenderà più lo stipendio? Questa veramente fa girare. Gli 88 collaboratori assunti con contratti a termine. Peccato che questi costassero tra i 900 e i 1.200 euro al mese. Licenziati per l'effetto del taglio a 12 commissioni. Ancora una volta, complimenti alla giunta della Regione Lazio, gli assessori, quelli anche sotto inchiesta o i presidenti consigliari, beccano lo stipendio. I collaboratori a 900 e 1.200 euro al mese, no, piove sul bagnato, oppure deboli con i forti e forti con i deboli, pensatela come volete. E poi i consiglieri regionali saranno garantiti, perché se si voterà davvero ad aprile, i loro stipendi costeranno ai contribuenti altri 7 milioni di euro, mentre il consiglio costerà complessivamente altri 51 milioni di euro. Ma meno male che avete tagliato i collaboratori a 800 euro, meno male. E poi una cosa ancora più bella, appena battuta dalle agenzie. Pensate che Franco Fiorito, io non so se Renata Polverini si fosse informata di chi era, che cosa avesse fatto Fiorito. Fiorito è stato indagato, adesso nel caso fondi del PDL, per sperpero di denaro pubblico, Erbatman. Ma nel 2005 la Corte dei Conti lo aveva già condannato. Lui era a quel tempo sindaco di Anagni. La sentenza della Corte dei Conti nel gennaio 2005 condannò Erbatman a risarcire il comune Ciociaro nella misura di 3.000 euro. Sapete per cosa aveva combinato? Guarda un po' se il lupo perde il pelo, ma non è in vizio. Aveva impiegato denaro pubblico con finalità di autopromozione con la manifestazione Estate di Anagni 2003, evento per il quale il sindaco Fiorito fece stampare, si legge nella sentenza, 170.000 ad Anagni, 170.000 depliants illustrativi per un importo di 28.000 euro. Ma adesso io a Anagni non so quanti abitanti faccio, lo cerchiamo magari al volo, qualche migliaio immagino, non di più, ma 170.000 depliants per Estate di Anagni 2003, 30.000 euro l'importo. In realtà, secondo quanto accertò la Guardia di Finanza di Frosinone, il depliant fu direttamente commissionato dal sindaco Fiorito, il quale impartì anche dirette disposizioni per la veste grafica. La brochure, secondo la Guardia di Finanza, più che pubblicizzare l'evento, realizzava la personale promozione del sindaco Fiorito attraverso denaro pubblico. Questo a dire che poi la Guardia di Finanza si era già mossa, la Corte dei Conti in questo caso si era mossa. Se però non gli anticorpi non ce li ha la politica, potete anche si possono muovere gli altri soggetti, la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, ma non serve a nulla. Comunque un applauso a Fiorito, perché già nel lontano 2003 aveva capito come utilizzare i fondi pubblici. Abbassare, puttare che più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni. Oh, adesso ce n'è una. Il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. E la invasori legalizzati, tutte blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. No, dicevo, adesso ce n'è una bellissima, perché io non so con che faccia, vabbè. Il governatore della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, interviene questa mattina a Radio 24, da noi a 24 mattino con Alessandro Milan. E sapete che gli viene in mente di dire: sono tranquillo sugli 8 anni del mio governo, e questo ci fidiamo e gli crediamo, così come sono molto sicuro e tranquillo dell'anno del sindaco Demetrio Arena, che è una persona di grande qualità. Ma qui sta iniziando una caccia alle streghe. Tranquillo sugli 8 anni del mio governo, come sono molto tranquillo e sicuro dell'anno del governo del sindaco Arena, persona di grande qualità e sicuramente professionista affermato, riconosciuto da tutti. E qui c'è un po' la caccia alle streghe. Il ministro si insedia e un giornalista, guarda caso, noto a noi calabresi, all'atto dell'insediamento della conferenza stampa il ministro Cancellieri si alza e dice: scusi, ma lei manderà la commissione d'accesso a Reggio Calabria? E il ministro rimane sorpreso da questa domanda, perché dice: mi sono insediato adesso. Questo le fa capire che si è costruita una strategia per demolire quanto di buono abbiamo fatto in 8 anni e si sta facendo oggi nella città di Reggio Calabria. Però vedremo. minuti, dicevamo, al di là delle spese, giustamente fa notare un ascoltatore che 4 miliardi che si potrebbero risparmiare, ripeto, portando le spese delle regioni a livello medio, equivalgono a un punto di IVA, giusto per far capire che non stiamo parlando polemicamente. Tra l'altro alcuni dicono: ma quando l'USI... Allora l'USI, è la vicenda indaga la magistratura, se permette, l'USI si è fregato i soldi della Margherita, soldi chiaramente pubblici, ne abbiamo parlato e straparlato nei GR. Qui c'è un problema di gestione del territorio, non di uno che si frega la cassa come ha fatto l'USI, ammesso e non concesso che gli altri non lo sapessero. Altro aspetto: non parlate mai delle regioni del centro-sinistra, ma non è vero, abbiamo parlato anche di Vasco Errani indagato per il fratello, di Vendola abbiamo parlato quando eravamo a Bari, chiedendogli anche il perché di una difesa per alcuni versi dell'Ilva di Taranto. Non è vero, quando emergono i casi e la magistratura indaga, non li raccontiamo, non è che possiamo sostituirci noi magistrati. Comunque, andiamo adesso in Spagna, dove, nonostante le fortissime tensioni e scontri di questi giorni, il governo Rajoy sta facendo la conferenza stampa adesso, ha annunciato una manovra lacrime e sangue, come si direbbe da noi, 35 miliardi di tagli, 349-238-6666 per i vostri SMS. Mi scrive un ascoltatore: fai schifo, quali sono i tuoi requisiti per condurre la trasmissione? Boh, non so, che parlo l'italiano, che ho una voce calda. Boh, almeno questi due, mettiamola così. A Spagna. Miliardi e riduzione fino al 20% delle spese dei ministeri. Luca Veronese del Sole 24 Ore, che segue le vicende spagnole. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Mamma mia, sei giù per la Spagna? Eh sì, sei depresso? Sto guardando i dati, le previsioni sull'economia spagnola, e questo non tranquillizza, certo. Ecco, ieri praticamente abbiamo visto alzarsi, e non poco, ieri, l'altro ieri, le tensioni in Spagna e gli scontri, ma devo dire che Rajoy va avanti. Poi vorrei capire invece anche cosa sta capitando in Catalogna, da un lato, in Andalusia. Dove andranno a colpire questi tagli, visto che 35 miliardi per un paese come la Spagna, a spanne come se noi facessimo una manovra da 50? Sì, in realtà il governo Rajoy, da quando è stato eletto, continua a fare più annunci che misure correttive, tanto è vero che anche questa manovra da 35 miliardi non è completamente nuova, ma porta con sé una serie di interventi già annunciati in almeno 2 occasioni prima dell'estate.

probabilmente fuori controllo secondo molti analisti, e la Spagna si è impegnata a rispettare un deficit del 6,3% del PIL per quest'anno e già si sa che probabilmente non riuscirà a stare sotto il 7%. E a catena, mi aggancio a quanto dicevi tu, l'orgoglio pesa anche per quanto riguarda le politiche delle regioni, e qui veniamo anche alla Catalogna, in modo particolare alla Catalogna, che protestano con Madrid per il patto fiscale, per il tipo di redistribuzione della ricchezza che c'è interna alla Spagna, e si rifiutano di modificare le loro politiche sul territorio, certo, e quindi di comprimere la spesa che era cresciuta in modo abnorme o quantomeno era cresciuta senza tener conto invece della diminuzione del gettito provocata dalla crisi. Sì, e questo è sicuramente un altro aspetto anche abbastanza, non dico contraddittorio, ma con diversi aspetti, perché poi ci sono richieste desiderata, ma anche la realtà. Grazie Luca Veronese, il traffico e poi di nuovo in diretta 349-238-6666 per i vostri sms, rispondo ad alcuni, ci sono anche molti sms di complimenti, a me imbarazza un po' leggerli. Ogni tanto è più stimolante leggere alcune critiche quando poi sono costruttive, le offese, vabbè. Quelle lasciano il tempo che trovano. Di nuovo in diretta, giornata più tranquilla oggi in borsa, più 0,30% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,20% Francoforte, più 0,20% anche Londra e l'America più 0,11%, allora borsa sia. Piatte in attesa appunto di novità dalla Spagna. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Lasciamo Fiat per ultima perché poi sarà l'approfondimento anche nella seconda ora. Bene Campari, sì, più 3,40%. Sì, bene Campari, perché oggi alcuni analisti hanno rifatto i calcoli sul futuro del gruppo, hanno alzato le stime per quello che riguarda l'utile per azione, anche grazie alle nuove acquisizioni la società potrebbe fare meglio del mercato e sono pertanto state aumentate le stime di utile per azioni sia per il 2013 che per il 2014, e questo ha portato un po' un beneficio al titolo, che ha chiuso a più 3,4%. Ancora bene anche Buzzi Unicem, quindi più 2,88%, e poi Azimut e Mediobanca. Se riusciamo a fare tutti e tre. Sì, per quello che riguarda Buzzi ha guadagnato il 2,88% grazie al buon andamento del comparto cementiero in Europa. Il merito è un po' della francese Lafarge, che ha annunciato questa mattina una serie di cessioni di attività negli Stati Uniti e ha spinto così un po' tutto il comparto. Per quello che riguarda Azimut, più 3,12%, il merito è un po' delle dichiarazioni ieri del presidente dell'amministratore delegato Pietro Giuliani, che ha aperto alla possibilità di un extra dividendo per quest'anno, anche perché i risultati sembrano incoraggianti e la società dovrebbe fare un utile superiore anche al record registrato per il 2009. Infine, dicevamo di Mediobanca, più 2,96%, è stato uno dei pochi titoli bancari che si sono messi in luce oggi, perché per il resto è stata una giornata piuttosto piatta sul fronte dei bancari, anche perché l'asta sui titoli di Stato è stata giudicata sì positiva per i rendimenti in calo, ma non altrettanto per quello che riguarda la domanda, è risultata un pochettino inferiore all'attesa proprio per la questione della Spagna. Certo, oggi c'era, cambiamo tema, il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia per esaminare anche le offerte arrivate su T-Media e quindi la 7. Sì, oggi c'era questo consiglio, ancora non si capisce benissimo quello che si sono detti, anche perché decisioni formali non dovevano essere prese oggi. Comunque il titolo oggi ha guadagnato l'1,48% e anche Telecom Italia Media ha chiuso in positivo a più 0,21%. Oltre alla questione della 7 c'era anche quello dello scorporo della rete, si parla da tempo di questo progetto in cui dovrebbe entrare anche la Cassa Depositi e Prestiti, e che è visto con favore dagli analisti perché consentirebbe di abbattere un pochettino l'indebitamento di Telecom. Infine andiamo anche su Canfin, ossia la finanziaria che controlla il gruppo Pirelli, perché oggi la holding GPA, che controlla a sua volta Canfin, ha diffuso un comunicato in cui ha reso noto il parere di un esperto che dava via libera a che cosa? Perché parliamo di obbligazioni convertibili. Sì, dava sostanzialmente un via libera a questo bond convertibile che contrappone Tronchetti Provera alla famiglia Malacalza. Sappiamo che la famiglia Malacalza aveva chiesto da tempo che ci fosse un aumento di capitale di Canfin per ristrutturare il debito, mentre Tronchetti Provera e la maggioranza del CDA vuole andare avanti con questo bond convertibile. Per tagliare la testa al toro, diciamo così, hanno chiesto un parere a un esperto esterno, un parere pro veritate, e questo parere è arrivato e ha detto che sostanzialmente Canfin può andare avanti senza l'accordo dei Malacalza a meno che il maggiore indebitamento superi i 40 milioni di euro. Sì, i Malacalza, lo dico per completezza di cronaca, volevano invece, avrebbero preferito, per essere buoni, un aumento di capitale che però rischiava di far diluire le quote di Tronchetti a un certo punto di vista. Per cui insomma l'aumento di capitale è quando tu metti più soldi dentro, e in questo caso l'obbligazione convertibile vuol dire chiedere soldi attraverso un'obbligazione poi convertibile in azioni per appunto per ottenere lo stesso obiettivo, cioè reperire maggior capitale, ma sono due modi molto molto diversi. I migliori e i peggiori oggi in borsa: Ross più 24,3%, Zucchi più 12%, Arena più 8,70%, Meridiana Fly più 8,30%, Stefanel più 4,70%, Dea Capital meno 7,30%, Bastoggi meno 4,60% come Banca Carige sul risparmio, Prima Industria meno 4%, Rizzoli, Corriere della Sera meno 4%. Chiudiamo su Fiat, che poi sarà il prossimo tema in oggetto. Titolo oggi ha perso, è il peggiore, non ha perso tantissimo, ma è il peggiore, meno 2%. Sì, più che le varie dichiarazioni che ci sono state oggi di Marchionne a pesare sul titolo, sono state le possibili ripercussioni che avrà su Fiat il disaccordo con Weba, il trust del sindacato americano, per il prezzo di cessione del 3,3% di Chrysler. Fiat e Weba hanno fatto ricorso al tribunale, che dovrà fissare il prezzo, e questo può essere un elemento di instabilità per il Lingotto, anche perché rischia di pagare più del previsto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di Fiat e di auto, per quello che è emerso dal Salone dell'Auto di Parigi. E poi, come dicevo, e con molto piacere, accogliamo anche una testimonianza di chi ha fatto l'amministratore comunale eletto e rappresenta con questa testimonianza le decine di mail che ci sono arrivate in queste settimane di amministratori, ex sindaci, ex consiglieri, che hanno detto: attenzione, siamo scandalizzati quanto voi da quello che stiamo leggendo, però non siamo tutti così. C'è gente che serve i cittadini, serve la popolazione, ha un'idea di servizio nell'essere eletto e nell'essere rappresentante politico e amministrativo degli elettori. E volentieri diamo anche un messaggio così, non dico di speranza, ma che non tutta l'erba diventi un fascio. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di tutto però la Fiat. Salone dell'Auto di Parigi, dicevo, e allora mentre il numero uno del gruppo Peugeot Citroën, Philippe Varin, dice la chiusura delle fabbriche è inevitabile, il mercato europeo è in sovracapacità, sul fronte opposto invece il numero uno del gruppo Volkswagen, Martin Winterkorn, dice da qua al 2014 lanceremo come Volkswagen 140 nuovi modelli. E poi il presidente di Volkswagen, Ferdinand Piëch, che dice restiamo ancora interessati all'Alfa Romeo. E ancora risponde Marchionne, lo dico anche in tedesco, l'Alfa non è in vendita, e poi aggiunge: non cerchiamo aiuto né dall'Italia né dall'Unione Europea, non bisogna illudersi che facendo gli investimenti si risolva il problema della, del mercato europeo, che continua a essere stagnante se non in recessione. Il vero e proprio problema è che esiste un problema in Europa e un problema da gestire. Possiamo avere opinioni diverse su come gestirlo. L'unica cosa che so è che la Fiat intende gestirlo senza aiuti o assistenza né dal governo italiano né quello europeo. Non abbiamo chiesto fondi, non abbiamo chiesto interventi, abbiamo semplicemente spiegato che la situazione europea è una situazione da gestire e che non può essere ignorata, e che non possiamo metterci su un cerotto, che non possiamo illuderci che investendo risolviamo molti problemi. E poi sempre Marchionne che chiede: bisogna cambiare il fisco in Italia per favorire l'export, e quanto agli stabilimenti italiani ha detto: farò tutto il possibile per evitare nuove chiusure dopo quelle di Termini Imerese. Il numero degli stabilimenti che abbiamo è chiaro, non ne apriamo di più, se vuole saperne. Chiudiamo. No, ho detto che avremmo fatto tutto il nostro possibile per non chiuderlo. Ma lasciate chiudere. Posso finire? Fatemi finire la risposta. No? Gli investimenti di una vettura sono piuttosto chiari. No? Partiamo da mezzo miliardo a un miliardo. Se faccio il conto di quanti soldi ci vogliono per far partire una macchina con almeno 5 stabilimenti, si rende conto. Più tutto ricerca di sviluppo, di motori, eccetera. Parliamo di parecchi soldi. 5 miliardi, per chi non se lo vuole ricordare, nonostante l'ennesima bugia che è stata raccontata da qualcuno ieri in televisione, da uno dei giornali che è qui, la Fiat ha speso 5 miliardi negli scorsi 3 anni, non 1,5 miliardi, ha speso 5 miliardi in Italia. Quindi non so, 5 miliardi per me sono molti soldi. Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore a Parigi, buonasera. Buonasera a tutti. Ma con chi ce l'aveva Marchionne, uno dei giornali che è qui? L'hai scoperto, immagino. No, francamente non lo so. Devo dire che ho corso più dietro ai manager che non ai colleghi. Vabbè, hai fatto bene, perché sarebbe grave il contrario, diciamo. Non entrerei nella polemica, nel senso che le cifre sono sempre, andrebbero sempre interpretate e spiegate. Marchionne non lo ha fatto, quindi sicuramente i 5 miliardi sono giusti, bisogna vedere cosa c'è dentro, per esempio se sono dentro il camion o no, eccetera. Ma è abbastanza inutile. Diciamo che quello che conta è che, lo ha ribadito, adesso in questa congiuntura lui non investe. Tra l'altro ha lasciato capire che per Mirafiori, dove sappiamo dovrebbe andare un piccolo SUV della Fiat e anche della Jeep, due auto diciamo gemelle sulla stessa piattaforma, in realtà i piani potrebbero non essere così definiti. Cioè la sua logica è: non sappiamo se questo piccolo SUV si può vendere con profitto producendolo lì. Quindi da un lato, come hai detto, chiede sgravi all'export e altre agevolazioni. Dall'altro però sta riflettendo, ha detto: abbiamo una specie di task force, stiamo valutando continuamente, potrebbe cambiare di nuovo l'auto destinata a Mirafiori. Quindi diciamo che quell'investimento che, ricordiamo, a agosto è stato detto ai sindacati che era sospeso, ci dovremmo aspettare delle novità nei prossimi mesi. Sì, c'è un ascoltatore che mi dice: ma lei stia attento Barisoni, perché i modelli Volkswagen magari cambiano i fanali, le gomme e dicono di aver cambiato il modello. No, perché a noi ha impressionato molto che mentre Marchionne continua a dire non investiamo, non è con gli investimenti che si risolve il problema del mercato, la Volkswagen oggi ha annunciato 140 nuovi modelli da qua al 2014, Andrea. Sì, anche i modelli sono un po' come gli investimenti, sono difficili da contare, bisogna vedere cosa c'è dentro. Come hai detto tu, basta cambiare un fanale. Diciamo che Marchionne ha fatto oggi due esempi precisi, anzi uno preciso e uno senza fare il nome, ma che si capiva qual era. Ha detto: la app della Volkswagen lanciata quest'anno, ha detto, andate a vedere quante ne hanno vendute rispetto alle loro previsioni. Cioè anche loro magari sì, fanno l'investimento, poi se ne vendono la metà di quelle che hanno previsto, magari non ci guadagnano poi così tanto o anche ci perdono. L'altro caso è quello di una vettura lanciata qualche mese fa, che probabilmente è la Peugeot 208, che sostiene Marchionne si vende allo stesso prezzo del modello precedente e quindi è un investimento assurdo. In realtà da Peugeot dicono: no, si vende a un prezzo più elevato, perché comunque è una macchina che ha più contenuti e costa anche meno produrla, quindi diciamo che noi ci guadagniamo di più che non sul modello precedente. Diciamo che sono scelte manageriali, sono discutibili. Quella di Marchionne da questo punto di vista è un po' diversa da quella della maggior parte dei concorrenti, anche se è chiaro che tutti in questa crisi, per riportare i conti in nero, tagliano qualche progetto o qualche prodotto. Diciotto minuti, ultima parte di Focus Economia. Torniamo a parlare della politica locale, però con un taglio, una volta tanto vista la cronaca di questi giorni, con un taglio un po' diverso. Eh sì, perché mentre il Sole 24 Ore anche oggi insiste e scopre, tra virgolette, che in 10 anni le tasse sono aumentate, le tasse regionali sono aumentate del 50% e anche le imposte pagate allo Stato sono aumentate del 31%, ossia addizionali IRPEF comunali regionali più 38% dal 2001 al 2012, e in media per le altre imposte un più 50%, tra l'altro con i decreti attuativi della manovra e del federalismo approvati l'anno scorso potrà accadere che aumentino ulteriormente, addirittura possono raddoppiare. Ma mentre aumentava l'IRPEF, le richieste dello Stato centrale non sono diminuite, i tributi erariali infatti sono cresciuti anche loro del 31%. Dicevo, questi sprechi, queste ruberie, questi lussi costano, perché chi ha la busta paga se li vede ogni mese come addizionale regionale. C'è però anche un altro tipo di politica che viene fatta sul territorio. Ripeto, decine e decine di mail che ci sono arrivate. Ringrazio, allora, ne abbiamo presa una a livello emblematico, perché la lettera era molto molto bella. E ringrazio quindi la signora Luisa Zambon. Buonasera, signora. Buonasera. Lei cosa fa nella vita? Io sono insegnante di scuola superiore, quindi una professoressa di lettere. Di lettere. E lei ha lavorato anche nella politica, però ha avuto un'attività politica? Sì, cosa? Sono prestata alla politica per circa 14 anni, dal 95 al 99 come vice sindaco, dal 99 al 2009 per due mandati consecutivi come primo cittadino. Allora, io dicevo che lei ha scritto una lettera che a me ha particolarmente toccato, perché in sostanza lei ha detto: io ho servito la mia piccola ma viva comunità. Cosa vuol dire per chi fa politica servire gli elettori, ma servire la comunità in primo luogo? Servire la comunità significa elaborare una serie di provvedimenti che aiutano il commercio, che aiutano l'economia, che aiutano le associazioni. Significa lavorare per quello che può sembrare retorica, ma che nelle realtà piccole, secondo me, invece è la concretezza reale. Lavorare per il bene e l'utilità comune, per promuovere sì il proprio territorio, usando anche quelli che sono i proventi pubblici dalle tasse, eccetera, ma per riversare tutto questo in servizi ai cittadini. Quanto guadagnava lei? Allora, netto 537 al mese. Cosa? Mila? No, 537 euro. A netti al mese, come sindaco? Come sindaco, perché io non avevo lasciato la scuola, l'impegno scolastico l'ho sempre mantenuto, quindi lavorando tutto il giorno, la mattina a scuola, il pomeriggio nel comune, usando il tempo, il giorno libero della scuola per ricevere il pubblico, quindi insomma ho fatto una grande... E se avesse lasciato la scuola quanto avrebbe preso? Il doppio. 1000 euro al mese? Esatto. Netti. Però avrei dovuto pagare da sola i contributi per la pensione, perché a quel punto l'amministrazione scolastica non poteva diciamo pagarmi la pensione per gli anni in cui sarei stata impegnata nell'attività amministrativa. A parte il fatto che lei scriveva in questa bellissima lettera: la prima volta che ho indossato la fascia tricolore ho pianto, ho visto gli occhi lucidi di commozione di tanti colleghi in occasione come 25 aprile o l'incontro con il presidente Ciampi. A noi piace che ci arrivino queste lettere, perché sono la dimostrazione che esistono decine, centinaia di amministratori corretti, responsabili, degni, civili, non so più come definirvi. Però vorrei capire una cosa, voi avevate cene per la politica, per l'attività politica sul territorio, come allora, sa giustamente il mitico Fiorito. Mi dica. Sì, sì, qualche cena di rappresentanza in occasione, non so, di eventi particolari come un gemellaggio, oppure non so, a conclusione per esempio dell'iter per il piano strutturale, altro modo per dire il piano regolatore, quindi abbiamo offerto una cena alle persone che avevano collaborato, ai consulenti, chi pagava? Che però non si sono mai sognati di prendere quelle cifre. No, ma chi pagava? Com'è? Chi pagava la cena? La cena in questi casi la pagava il comune, ma le spese di rappresentanza negli anni in cui sono stata io, in un anno erano calcolati sui 1.000-1.500 euro e a volte non venivano spesi nemmeno tutti. Non so, in occasione per esempio delle festività natalizie era costume trovarsi a cena proprio per farci insomma gli auguri di Buon Natale eccetera, dipendenti, amministratori, ma ognuno pagava per sé con i propri soldi, non con i soldi presi dal bilancio comunale. Qualche viaggetto, signora? Senta, io l'unico viaggetto che ho fatto in qualità di rappresentante del mio comune è stato nel 2003 in Inghilterra, era un'iniziativa promossa dalla regione toscana con le province di Siena e di Arezzo e per il Chianti era stato scelto il mio comune insieme ad uno limitrofo. E a carico del comune è stato l'albergo, comunque erano 3 giorni, 2 notti, però il viaggio per andare all'aeroporto e anche insomma il viaggio stesso in aereo me lo sono prenotata io su internet, ci siamo divise le spese con i colleghi che abbiamo partecipato a questo evento. Quanti colleghi di altri comuni, non me ne frega nulla che si siano di centrodestra o centrosinistra, conosce che lavorano e fanno attività politica di rappresentanza, di amministrazione come lei? Ma molti, io nel periodo in cui sono stata, ma anche gli attuali che conosco molto bene perché siamo comuni limitrofi molto piccoli e quindi la conoscenza è veramente a livello familiare, io posso testimoniare e certificare che tutti si sono comportati come si è comportata la mia amministrazione e continuano a farlo, anche perché siamo continuamente sotto gli occhi di tutti, nel senso che io abito in un paese dove ci sono circa 1.700 abitanti, il comune vicino più grande ne ha 8.000, ma in ogni caso il sindaco lo si incontra a fare la spesa, al bar a prendere un caffè, al giardino con i bambini, quindi siamo comunque sempre sotto gli occhi dei cittadini. Probabilmente è anche questa vicinanza che ci fa essere più attenti. E probabilmente i cittadini riconoscono anche non tanto l'appartenenza politica, ma quello che una persona riesce a fare. Io posso dirle che nella mia rielezione nel 2004 ho avuto più risultati positivi che non quando mi sono presentata. Quanto ha speso per la sua campagna? Com'è? Quanto ha speso per la sua campagna? Ho speso a livello mio personale o appoggiata dai partiti che ci sostenevano, eravamo una coalizione di centro-sinistra. Ma posso dire 1 migliaio di euro? Lo dica. Diciamolo. Se, ecco, quando, per concludere, tra l'altro devo dare una risposta a un ascoltatore, no, non ho mai detto che le addizionali IRPEF le paghino solo i lavoratori dipendenti, ho detto che chi ha la busta paga le vede tutti i mesi, semplicemente perché vengono detratte alla fonte, c'è proprio la voce addizionale regionale o addizionale comunale, poi sono i soldi che le regioni spendono in alcuni casi, come abbiamo visto. Le volevo chiedere un'ultima cosa. Sì. Signora, ma quando lei legge poi e vede montare la rabbia da Forconi nei confronti di quello che hanno fatto, non voglio citare solo la Regione Lazio, ma di come vengono spesi i soldi, delle discrepanze tra regione e regione, del fatto che il Sole 24 Ore ha stimato in 4 miliardi di risparmi possibili in maniera rapidissima se tutte le regioni avessero una spesa standard, cioè uguale per abitante, per i loro consiglieri e per il funzionamento della macchina. Ecco, lei viene a rabbia, dice beh ma tanto quelle sono grandi, i meccanismi sono diversi. No, viene proprio rabbia perché mi sembra che passi il messaggio che tutte le persone che si dedicano all'amministrazione pubblica siano in qualche modo favoriti o che pure facciano questo per un tornaconto personale, il che le posso garantire che non è. Quindi la rabbia è quello che mi ha spinto a scrivere questa lettera. è stata proprio questo, cioè dimostrare agli italiani che non è così, che gli italiani lo sanno benissimo. Poi a livello più alto non lo so che cosa succede, non so se è una politica fatta più di giochi di potere piuttosto che di azioni concrete. Io le posso assicurare, e continuo a testimoniarlo a nome anche dei miei colleghi, che abbiamo avuto veramente a cuore quello che significa promuovere un territorio e lavorare per le persone che ci vivono, per le persone che poi vengono a fare turismo da noi, perché il Chianti, insomma, come lei sa, è una delle regioni più frequentate, meta di sì, ma lei si sarà chiesta, mi dica solo una cosa perché siamo in conclusione, ma in una battuta, ma perché secondo lei c'è questo salto di qualità tra chi amministra il territorio a livello locale e invece non arriva mai a livello regionale o nazionale? Perché? Perché? Perché io credo che sia importante la vicinanza con il cittadino, cioè il cittadino che veramente controlla giorno dopo giorno quello che tu fai. Ma un sindaco onesto potrebbe diventare un onesto presidente della regione, un onesto deputato. Allora, guarda, io mi sono fatta questa domanda perché mi è capitata proprio questa esperienza. Mi era stato offerto, dopo l'esperienza di sindaco, di andare in regione. Io ho rifiutato, non perché non mi sentissi capace o all'altezza, ma perché dopo 14 anni di esperienza pubblica, secondo me bisogna anche favorire un ricambio. Lei è troppo buona, signora, io le auguro in bocca al lupo. Io ho un'altra idea arrivino invece in regione o in Parlamento, perché ci sono le segreterie, le scelte, le logiche interne. Scrive un ascoltatore: ma scusate, 1.000 euro al mese, come si fa a portare gente competente nelle amministrazioni locali con questi stipendi? State facendo populismo. Beh, non mi sembra che con gli stipendi che abbiamo visto, 10.000-12.000 euro al mese, si siano portati chissà che geni. E chiudo con l'ultima notizia, che abbiamo dato anche un'ora fa, è un'agenzia di un'ora fa. Nel 2005 la Corte dei Conti aveva già condannato Franco Fioritto, l'er Batman, a risarcire il comune di Anagni, perché, immaginate un po', aveva utilizzato soldi pubblici per autopromozione, ossia aveva fatto stampare 170.000 depliants illustrativi per un importo di quasi 30.000 euro per la manifestazione estate di Anagni 2003, in cui sostanzialmente si faceva autopromozione al sindaco. Era già tutto scritto nel 2003 e nel 2005, poi lo scopriamo nel 2012, chiudiamo come al solito e ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Radio 24. La passione si sente.